Signore e signori, buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Dallo studio dell'emittente radiofonica Rock FM. Trasmettiamo Eclettica! Cari ragazzi, buon pomeriggio. Il programma Eclettica. Rubrica dedicata ai problemi tecnici dell'agricoltura. Di e con Giulio Caperdoni. Inizia oggi il suo regolare servizio di trasmissioni televisive. Da parte mia, a tutti voi, l'augurio di una buona visione. Signore e signori, buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buon pomeriggio. Buonasera. Sera. Sera. Sera. Tra qualche istante vi trasmetteremo a colori. Eclettica! Eclettica! Eclettica! Andrà in onda tra qualche istante. Eclettica! Signore e signori, vi auguriamo buonanotte. Buonanotte. Buonanotte. È l'inizio di una nuova settimana di Eclettica, è la seconda di questa nuova stagione, la stagione numero 14 sulle frequenze di Rock FM. Un benvenuto a tutti voi da parte di Giulio Caperdoni. Avete sentito questa nuova sigla? Vi piace? Beh, i primi giudizi che sono arrivati sono positivi, sono arrivati anche ad Ariel, i complimenti, li ho sentiti in onda durante Pane, Burro e Rock and Roll. Ariel è quello che ha messo in pratica la mia idea, è stato lui a tagliare e cucire le voci che io avevo raccolto. Grazie Ariel, ma grazie anche a tutte le voci, sia quelle note che quelle non note, che mi hanno aiutato a realizzare la nuova sigla di Eclettica. E a questo punto andiamo a cominciare. Quasi l'alba adesso. Tra 24 ore mia madre si alzerà, tutta giuliva, si infilerà nel suo tailleur rosa confetto, farà colazione canticchiando, uscirà di casa camminando su nubi di soffice vapore. «Vado alla laurea di mio figlio!» ripeterà ai vicini di casa, logorroica come un nastro spezzato. «Vado alla laurea di mio figlio diventa dottore! Presto, sarà un avvocato!» E detto questo 100.000 volte, salirà in macchina tutta contenta, guiderà giù per i tornanti di montagna che ama tanto, arriverà a Bologna puntualissima, pronta a cingermi la fronte con la corona d'alloro. In perfetto orario per la laurea di suo figlio. Il momento che aspetta da tutta una vita. Tutto bellissimo, quasi commovente. Se escludiamo il dettaglio che non ci sarà nessuna laurea domani mattina. Sarebbe un po' pretenzioso volersi laureare con 4 soli esami sul libretto. Il libretto vero, intendo. Non quello a uso e consumo di mia madre. Questo era l'incipit di L'Abisso di Gianluca Morozzi. Baby doll, you've been lonely, I've been out of town, playing the unintended circus clown, looking for someone just like you, girl. But now the stars are going out and old familiar halls are falling off the grid. I wanna get back on your list and resurrect the things we did. Baby doll, I've been circling the whole world round, trying to find the ones who stole my sound, so I could bring it back to you, girl. You'll be sashed in satin, I'll be purring like a kitty cat, and you won't sit in silence like you do. Then you can tell me I'm the only one, you'll make love to me too. Than you deserve, but if I don't, I'm guessing I won't get the chance to make amends. While I'm paying you, being the ladies, making contact with your friends. I've seen this one. This is a classic. This is where Ralph dresses up as a man from space. What do you mean you've seen this? It's brand new. Yeah, well, I saw it on a rerun. What's a rerun? You'll find out. Per i nuovi all'ascolto voglio ricordare la possibilità non solo di ascoltare Eclettica in diretta via etere o via internet grazie allo streaming o via satellite grazie alla piattaforma di Sky, ma anche la differita, ovvero sia il podcasting di cui trovate i dettagli su myspace.com/eclettica oppure sul sito ufficiale della radio www.radiorockfm.com. Quest'oggi abbiamo aperto Eclettica con Dan Wilson, ex Semisonic, ora carriera solista che sta per vedere una nuova uscita dalla quale ci siamo ascoltati Baby Doll. Poi da Stoccolma gli svedesi The State of Samuel Square Roots è il titolo del pezzo che si è appena chiuso, ed ora sta per arrivare un artista italiano a cui sotto la forma dei COD avevamo dato parecchio spazio negli anni. Chi non si ricorda Tsunami nelle playlist di Eclettica? Stanno per uscire il 12 di novembre i Nano, di cui Emanuele Lapiana è il leader. Nano con tutte le quattro lettere puntate, con un album dal titolo Mondo Madre, uscirà per la Fosbury Records, e da questo disco ci ascoltiamo Canzone di Cemento Armato. Questa è la canzone di cemento armato, è la bellezza che toglie il fiato. Un vecchio amico perso ritrovato. Questa canzone è un bimbo che non vuole essere picchiato. Questa è la canzone rudimentale, una canzone che non fa male, ti fa sentire come un temporale, uguale a tutti e a tutto e a tutto disuguale. Non mi piace la musica italiana perché mi piaci solo tu. Ci solo tu. L'industria discografica italiana allo sbando ed io non sono affatto giù. Canto nel cemento armato perché la plastica non vince. Perché la plastica non mi convince. La lascio masticare a questo prece che pensa di essere cristallo, ma sono solo schegge. La soffiata arriva alle 5 del pomeriggio mentre cerco una coperta, nel caso che stanotte faccia un freddo da creparci. E Piero, che mi telefona concitato, dice soltanto «Corri! Corri da Free Joint, che c'è una lista!» Poche parole, ma chiarissime. 10 secondi e ho già addosso la maglietta identificativa del Bottom Line. 30 secondi e sono in strada a maledire il traffico. Sfreccio, sgommando, su via Gagarin, direzione tangenziale. Mi fermo scalpitante alla rotonda. Do la precedenza ripetendomi «Dai, dai, su!». Faccio tre quarti di rotonda, sgommo via su via Gagarin in direzione stazione, che se ieri sera parcheggiavo dall'altro lato della strada, avevo risparmiato mezzo minuto buono. «Dai, dai, su!». Questo era l'incipit di «Accecati dalla luce» di Gianluca Morozzi. Where Riverside Drive is? It's on the other end of town, a block past Maple, east end of town. A block past Maple, that's John F. Kennedy Drive. Who the hell is John F. Kennedy? Oh, Era Richard Swift, l'artista che ci siamo appena ascoltati, con quella sua faccia da scherzo, come si dice dalle mie parti. Dressed Up for the Letdown, il titolo dell'ultimo album dell'artista statunitense dal quale ho estratto The Song of National Freedom. Giulio Capperdoni in vostra compagnia ancora per una manciata di minuti, poi una pausa e poi ci sarà la seconda parte di Eclettica. I vecchi ascoltatori di Eclettica, non in termini di età ma in termini di stagioni di ascolto, sanno quanto siano importanti le playlist, cioè l'elenco delle canzoni, dei film e delle letture che compongono questa trasmissione. Quindi lo ricordo per gli altri, perché ho scoperto con questo inizio di stagione quanti nuovi si siano aggiunti. Esiste la playlist di Eclettica, esiste la possibilità di recuperarla su internet, su myspace.com/eclettica, ma soprattutto esiste la possibilità di riceverla direttamente nella vostra casella di posta se vi iscrivete alla lista nera scrivendo a giulio@radiorockfm.com. Songs of Green Pheasant è questo il nome dell'artista, o meglio pseudonimo dell'artista, visto che lui poi si chiama Duncan Sumner, che ci ascoltiamo nei prossimi minuti. È un insegnante di 30 anni dello Sheffield inglese che inizialmente aveva mandato un demo nel 2002 alla Fat Cat. Poi la Fat Cat, colpita da quel demo che era mandato con lo pseudonimo di Kayak, ha cercato in tutti i modi di convincerlo a registrare un disco di lunga durata. Ora ci sono riusciti e da quel disco ci ascoltiamo appunto un estratto. E sembra che stiano anche convincendolo magari a portare queste canzoni dal vivo. Thank you. Mother, with Marty's parents out of town, don't you think he ought to spend the night? I mean, after all, Dad almost killed him with the car. That's true, Marty. I think maybe you should spend the night. I think you're our responsibility. Well, gee, I don't know. And he can sleep in my room. I gotta go. Thanks very much. It was wonderful. You were all great. See you all later. Much later.